la TV, la TV è lì che lo riprende, proprio lui, proprio lui, l'extraterrestre, ormai è qua, bianchi, neri, rossi e gialli, bianchi, neri, rossi e gialli, fratelli, di colpo fratelli, dentro, bianchi, neri, rossi e gialli, bianchi, neri, rossi e gialli, fratelli, fratelli del mondo, incontro, eccolo lì che viene giù, forse è venuto per portarci un sogno, guardalo lì che viene giù, o forse solo per darci una mano, ma cosa facciamo se viene giù? Forse solo perché ha bisogno. Viene giù da un pianeta lontano. La TV, la TV, dice che mangia i soldi di tutti i terrestri. Ormai è qua, bianchi, neri, rossi e gialli. Rossi, bianchi, neri e gialli. Il mondo di colpo fratelli, dentro. Rossi, bianchi, neri e gialli. Rossi, bianchi, neri e gialli. Fratelli, sti tutti fratelli, contro. Sparagli adesso che viene giù, forse è venuto per portarci un sogno. Sparagli adesso che viene giù, o forse solo perché ha bisogno. Sparagli prima che tocchi giù, o forse solo per darci una mano.